la prospettiva nella quale analizzerò il rapporto tra il diritto sociale e giurisprudenza della Corte Costituzionale, come potete vedere dal summary che ho distribuito, e il rapporto tra Corte Costituzionale e potere legislativo. In effetti il ruolo e l'interpretazione delle norme programmatiche e finalistiche contenute nella Costituzione, di cui i diritti sociali sono una delle parti più significative, è stato uno dei punti privilegiati per l'interpretazione di questo rapporto, del rapporto appunto tra Corte Costituzionale e potere legislativo. Il fatto poi che l'intervento della Corte in materia di diritti sociali sia stato quasi sempre richiesto in presenza di comportamenti omissivi del legislatore, e il fatto parallelo per cui spesso le decisioni su questa materia si traducono in conseguenze sul bilancio dello Stato, rende la giurisprudenza della Corte sui diritti sociali un luogo di osservazione privilegiato di questo rapporto. A partire poi dalla giurisprudenza delle Corti Costituzionali sulle norme programmatiche e i diritti sociali, sono stati poi proposti sia modelli diversi della giurisdizione costituzionale all'interno dei sistemi accentrati, sia classificazioni degli stessi sistemi costituzionali. Le alternative si sono sviluppate in questa direzione, in quest'ultima direzione, tra sistemi a prevalenza di, secondo una classificazione di Ralph Dreyer, ripresa da Zagrebeschi in Italia, dicevo, tra sistemi a prevalenza di costituzionalismo o di legalismo, e per quanto riguarda la Corte, tra un modello politico e uno giurisdizionale del suo ruolo. Modello politico e giurisdizionale che rimane in termini storici al debutto dei modelli europei di giustizia costituzionale, a partire dalla polemica tra Kersten e Schmitt, la notissima polemica tra Kersten e Schmitt sul custode della Costituzione. Il punto di riferimento di questi modelli, come ho già accennato, modelli che tendono a implicarsi reciprocamente, è dato dal rapporto tra Corte e potere legislativo. Mentre il modello politico della Corte postula un potere di indirizzo e di creazione normativa da parte della Corte, nella forma, per quanto riguarda l'esperienza italiana, sia delle sentenze cosiddette creative, additive e sostitutive, sia delle sentenze in diritto, nel modello giurisdizionale tale ruolo è visto come eccezionale e sostanzialmente da limitare al minimo. Tali contrapposizioni poi, nella prassi delle corti, trovano ulteriori specificazioni. La prevalenza di una giurisdizione più astratta e meno legata al caso concreto sarà un indicatore di un'accentuazione del ruolo politico della Corte, mentre un maggiore legame al giudizio a cuore e un'estensione delle decisioni processuali lo sarà nel senso inverso. Va aggiunto a questo che la scelta e la preferenza per uno dei due modelli è però segnata non solo da valutazioni interne alla logica giuridica, ma esplicitamente da una diversa concezione della Costituzione. In termini schematici, le alternative si incentrano su due opzioni fondamentali. Da un lato, l'idea della Costituzione come cornice e garanzia, e dall'altro, quello della Costituzione come indirizzo vincolante. Sempre schematicamente si può dire che mentre nel caso di un sistema costituzionalistico e politico si sostiene un'idea di Costituzione come indirizzo, e cioè, secondo un'espressione di Zagrebeschi, come ordinamento di valori strutturati secondo una rigida gerarchia e dominante lo sviluppo della legislazione. Nel caso opposto, si concepisce la Costituzione come una cornice aperta a cui interno, nel rispetto di alcuni limiti, si coglie liberamente il gioco delle forze politiche. Un tale schema rischia però, dalla mia prospettiva, di essere riduttivo. In particolare, esso appare tralasciare i presupposti politici e funzionali dei diversi modelli e della stessa idea di Costituzione, nel senso sia dei soggetti istituzionali e non istituzionali dell'attuazione dei principi, sia delle condizioni di integrazione politica che questi richiedono. In particolare, questo dato è particolarmente significativo se integrato dalla considerazione dei suoi presupposti materiali. Il concetto di Costituzione come indirizzo vincolante appare legarsi non tanto ad una visione politica della Corte, quanto a quella di un suo ruolo limitato rispetto al potere legislativo. In questa prospettiva, lo sviluppo di una giurisdizione costituzionale più incisiva e politica appare più come il segno di una crisi di quel modello che non il segno della sua affermazione. L'analisi dei diritti sociali e della giurisprudenza della Corte che svilupperò in relazione alla situazione italiana può essere indicativa in questo senso. Essa la condurrò in riferimento privilegiato, come diceva la Corte, tra Corte e potere legislativo, in relazione sia all'evoluzione delle tecniche argomentative, sia la rilevanza dell'intervento creativo della Corte. A questo proposito è possibile schematicamente individuare due diversi atteggiamenti nella giurisprudenza della Corte sui diritti sociali. Si può cioè distinguere tra un atteggiamento prudente nei confronti del legislatore ed un atteggiamento più incisivo, che implica un ruolo della Corte meno rispettoso della discrezionalità del legislatore. Questi diversi atteggiamenti, nel corso degli ultimi 15 anni di attività della Corte, appaiono essere distinguibili anche in termini temporali. Ad una prima fase, per tutti gli anni 80, di estrema prudenza, appare seguire un atteggiamento più deciso e più politico della Corte. Il dato di riferimento sono, nello specifico dei diritti sociali, come dicevo, le sentenze relative ai cosiddetti comportamenti omissivi del legislatore, ed in particolare quelle che sono state denominate come omissioni relative da Mortati o come omissioni di secondo grado. Nel caso cioè in cui la Costituzione ha un'attuazione parziale e ci si trova di fronte ad una lesione del principio di eguaglianza. Il dato è direttamente rilevante, in particolare in relazione ai diritti di prestazione e allo sviluppo che questi hanno trovato nelle forme, da un lato del bilanciamento e graduazione degli interessi e delle pronunce di inammissibilità, e dall'altro della presenza ed evoluzione delle cosiddette sentenze additive di prestazione, e cioè di quelle sentenze che, secondo la definizione di Elia, determinano l'acquisto a favore di determinate categorie di soggetti, pubblici dipendenti, pensionati, eccetera, di un diritto a contenuto patrimoniale, retribuzioni, indennità, pensioni o a prestazioni di servizi, da cui erano in precedenza escluse, determinando in questo modo un obbligo di una nuova o maggiore prestazione, cioè una situazione di dare o di facere. E cioè è rilevabile in questo settore, in particolare negli anni Ottanta, lo sviluppo della tecnica interpretativa del bilanciamento ed un progressivo aumento delle pronunce di inammissibilità, che si lega sempre nella stessa fase ad una forte diminuzione quantitativa delle sentenze additive di prestazioni. Abbiamo cioè un atteggiamento prudente della Corte. Sulla tecnica del bilanciamento e della graduazione degli interessi, che trova origine addirittura nella prima sentenza della Corte, nella dottrina dei limiti naturali o impliciti dei diritti, che la Corte esprime già nella sua prima decisione, nella prima sentenza del 1956, sulla base della considerazione per cui il concetto di diritto è insito, il concetto di limite, scusate, è insito nel concetto di diritto e per cui nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile. Questa è una linea che si sviluppa negli anni successivi. La Corte sostiene l'esigenza che le norme costituzionali non vadano considerate isolatamente, ma bensì coordinate tra loro. Lo sviluppo di queste linee interpretative di questa dottrina si è però rivelata di natura rigida e tendente a fissare delle gerarchie troppo fisse tra diritti e interessi. Lo sviluppo di questa tecnica interpretativa ha poi portato, anche nel campo dei diritti sociali, forse soprattutto per questi, allo sviluppo di una linea nuova, quella appunto, come ho già osservato, del bilanciamento e graduazione degli interessi, di cui i diritti di prestazione sono forse il caso paradigmatico. In questo campo il punto di riferimento è la sentenza 180 del 1982, relativa al limite della riduzione della capacità di guadagno degli invalidi, dove vengono fissati dalla Corte una serie di canoni guida che verranno più volte ribaditi in altre sentenze. Nella sentenza la Corte si esprime in questi termini. Dice la Corte: rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori, se ne sono beneficiari, e della soddisfazione di altri diritti, pur costituzionalmente garantiti da un lato, e delle disponibilità finanziarie dall'altro. Dice la Corte: discrezionalità che questa Corte, che è priva dei necessari poteri istruttori, non può sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate. Tale sentenza, secondo la maggior parte delle interpretazioni, fissa una serie di canoni che si pongono come punti di riferimento per tutte le altre questioni in cui entri in discussione l'attuazione dei diritti sociali. I criteri che la Corte enuncia sono tre: la gradualità come caratteristica dell'attuazione dei diritti di prestazione, la rilevanza dei limiti finanziari posti dal bilancio, l'insindacabilità delle scelte del legislatore al di fuori del semplice giudizio di ragionevolezza, che come vedremo tende in questo caso a diventare un giudizio di semplice razionalità. Tali criteri indicano come in relazione alla gradualità l'attuazione dei diritti di prestazione sia soggetta ad un mutamento temporale, non sempre poi sulla base di un progresso delle prestazioni. Vi sono in questa direzione una serie di sentenze della Corte sulla non intangibilità dei diritti quesiti, questo per quanto riguarda la gradualità. Esplicito poi il riferimento alle esigenze finanziarie e di bilancio, quale altro interesse costituzionale su cui fondare tale gradualità. La Corte infatti sostiene che la gradualità dipende dalle difficoltà finanziarie da superare e appare come caratteristica del fenomeno, giungendo a sostenere che il bilanciamento tra il diritto alle prestazioni sociali e l'interesse al bilancio deriva dal fatto che si tratta di esigenze parimenti apprezzabili. Questa è la sentenza 101 del 1987, il relatore è Greco, che è quello che fece relatore anche in quella precedente sentenza che è citata. Vengono cioè bilanciati, assumendoli come valori, due principi eterogenei, diminuendo il valore precettivo del diritto ed elevando al principio costituzionale, non quasi semplice strumento, quello della copertura finanziaria. Nulla poi di preciso aggiunge la Corte per quanto riguarda la valutazione delle esigenze finanziarie, anzi, sotto questo profilo la Corte pare accreditare una sorta di presunzione di legittimità delle scelte del legislatore, convenendo che tali decisioni, cioè le decisioni del legislatore, hanno presumibilmente tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni e delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale che ne garantisse la copertura. Questa è la sentenza 31 del 1986. La preoccupazione per la copertura finanziaria e il rispetto della discrezionalità del legislatore ha poi portato in secondo luogo la Corte a utilizzare nel campo dei diritti di prestazione lo strumento delle pronunce di inammissibilità invece della pronuncia di una sentenza additiva. Tali pronunce, come noto, a differenza di quelle di manifesta infondatezza, non si basano sulla esclusione del vizio di incostituzionalità, che anzi è molto probabile sia presente, ma sul fatto, come ha commentato Luciani, che l'ostacolo ad affrontare il merito sta proprio in una carenza di potere del giudice costituzionale, giacché la via da seguire è quella delle riforme legislative e non quella indiretta che passa per la Corte. Questa riluttanza non è ovviamente assoluta, la Corte ha sostenuto che le sentenze di accoglimento additive che comportano un incremento di spesa sono sempre consentite. La Corte però sostiene che quando si profila una pluralità di decisioni derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore, sentenza 125 del 1989. Tale atteggiamento della Corte si trova poi in tutte le decisioni, quasi tutte, di inammissibilità, attraverso le quali la Corte appunto sottopone al legislatore l'alternativa tra un intervento volto al ripristino della legalità costituzionale o di essere sottoposto ad una sentenza successiva di legittimità della norma iniziale. Si tratta delle sentenze cosiddette di rigetto condizionato o delle cosiddette sentenze monito, il cui scopo è quello di permettere al legislatore una valutazione dilatata nel tempo del problema di fronte ad un possibile vuoto normativo e di posticipare gli effetti dell'annullamento. Anche in questo caso, però, come è evidente dal ricorso all'inammissibilità, è presente una motivazione basata sulle esigenze non solo della certezza del diritto, ma di quelle della discrezionalità legislativa. Il secondo aspetto da mettere in evidenza è come successivamente a questa fase di prudenza, adesso discrezionalità e competenze del legislatore, la Corte tenda a riassumere un ruolo più attivo e di indirizzo rispetto ai valori costituzionali. Questo aspetto è presente, a mio avviso, nella ripresa delle additive di prestazione e soprattutto nella elaborazione di nuovi strumenti dogmatici da parte della Corte. Rispetto alle prime, da segnalare in particolare la sentenza 243-1993, nella quale la Corte, in materia di calcolo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti, rinuncia esplicitamente al rinvio della questione di incostituzionalità per il rispetto della discrezionalità del legislatore. Affrontando la questione, dopo una serie di decisioni di inammissibilità e di moniti al legislatore affinché si eliminasse la sperequazione tra lavoratori pubblici e privati, la Corte giunge a dichiarare esplicitamente di non poter continuare a pronunciare altre decisioni di inammissibilità fondate sul rispetto della discrezionalità del legislatore, né esprimere ulteriori moniti, permanendo infatti, dice la Corte, ed essendosi anzi aggravato per il decorrere del tempo lo stato di irrazionalità e le sperequazioni chiaramente denunziate dalla sentenza 220 del 1988, dice la Corte, una pronuncia che ancora una volta rimettesse il superamento di queste situazioni che incidono su valori costituzionali all'intervento del legislatore non potrebbe non apparire come abdicazione alle funzioni del giudice delle leggi e non potrebbe non risolversi nella protezione non già della discrezionalità del legislatore, ma della sua inerzia. Altre affermazioni in questa direzione si trovano in una serie di sentenze, soprattutto in materia di minimi pensionistici, adesso è di stretta attualità la 240 del 1994, nelle quali la Corte assume un atteggiamento molto più marcato e diretto rispetto al potere del legislatore. Un'ulteriore indicazione di questo ruolo della Corte è rintracciabile inoltre in un nuovo indirizzo della giurisprudenza costituzionale che si concretizza in alternativa alle additive di prestazione nelle cosiddette sentenze additive di principio e nelle specificazioni che queste hanno ricevuto. In tali sentenze, quale la sentenza 295 del 91, la 88 del 1992 e la già citata 243 del 1993, la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma che viola il principio di eguaglianza o lede il principio costituzionale, ad esempio nella 295 del 91, della mancata previsione di un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione, invita contemporaneamente il legislatore affinché provveda a ripristinare la legalità costituzionale ed infine, e questo dato è tanto più nuovo, afferma che la giurisdizione comune deve ricercare ed applicare, secondo gli strumenti ermeneutici di cui dispone, la regola corrispondente al principio disposto dalla Corte. Nate come tentativo di soluzione alle implicazioni finanziarie delle additive di prestazione, delle sentenze che costano, come è stato detto, implicando che dal principio enunciato non deriva immediatamente alcun onere finanziario che deriverà dalla regola disposta dall'intervento del legislatore o in sua mancanza dall'intervento dei giudici, con la già citata sentenza 243 del 93, queste sentenze additive di principio trovano un ulteriore punto di sviluppo. In questo caso, la Corte non si limita al riconoscimento del diritto, prassi comunque innovativa rispetto a quella dell'inammissibilità, ma determina in modo esplicito, con l'indicazione nel caso in esame dell'indennità di fine rapporto, della necessità per il legislatore di un'azione di omogeneizzazione della materia. Indica di conseguenza un indirizzo che il legislatore deve seguire, una serie di principi che il legislatore deve seguire nella legislazione che seguirà la sentenza, e fissa inoltre un termine per la sua realizzazione. Senza entrare nel dibattito su tale tipo di sentenze, va comunque messo in evidenza come esse appaiono segnare una nuova fase della giurisdizione costituzionale. La discrezionalità del legislatore non è più il margine per l'inammissibilità e, parallelamente all'affermazione del diritto, la Corte indica precisi indirizzi e termini e coinvolge direttamente, per l'attuazione del principio, la magistratura ordinaria, chiamata ad applicare nei giudizi il principio sancito dalla sentenza della Corte. Come è stato notato in un commento a questa decisione, in una materia nella quale il giudice costituzionale avrebbe potuto totalmente spogliarsi della competenza, rinviando alla discrezionalità legislativa, non solo interviene, ma soprattutto indirizza la scelta del legislatore, che perde dunque il proprio carattere discrezionale. Cerco ora di valutare in quale modello di Costituzione inserire questi diversi atteggiamenti della Corte e di cercare di spiegare poi, se esiste una spiegazione ovviamente, del perché si evolve. Le decisioni della Corte che abbiamo richiamato in relazione alla prima fase sembrano indicare, rispetto ai modelli, insieme all'atteggiamento prudente nei confronti del potere legislativo, anche una visione del ruolo della giurisprudenza costituzionale legata più ai suoi aspetti garantistici che a quelli di indirizzo politico. La Corte appare cioè nel campo in particolare dei diritti di prestazione e degli strumenti di attuazione di tali diritti, limitare la sua funzione alla individuazione dei limiti esterni e dei fondamenti di ragionevolezza, o per meglio dire di razionalità, secondo l'espressione di Volpi in un seminario dedicato alla ragionevolezza a cui ha partecipato anche il professor Scheffler, delle decisioni legislative. Il rispetto infatti dell'ampia discrezionalità del legislatore si lega in questo caso all'adozione di una serie di tecniche argomentative che, privilegiando spesso un giudizio basato sul principio di eguaglianza formale, tendono ad abbassare come è stato notato da Mezzanotte, il tono costituzionale della questione, limitandosi al controllo della coerenza legislativa. Una tale restrizione pone il sindacato costituzionale solo come verifica degli aspetti formali del principio di eguaglianza, limitandosi in questo senso ad un controllo sulla arbitrarietà di alcuni aspetti della legge e non facendo riferimento al diritto in senso sostanziale. Limitandosi cioè in questi casi all'accertamento di una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti ammessi e soggetti esclusi, o nella determinazione dell'ammontare di una prestazione, la Corte tende a privilegiare rispetto agli aspetti di diritto costituzionale e sostanziale, come è stato notato, un procedimento fondamentalmente analogico, nel quale vengono confrontate non tanto due fattispecie legislative e un principio costituzionale, ma direttamente fattispecie legislative ordinarie. A questo proposito è indicativa la sentenza 430 del 1991 sull'indennità premio di servizio tra dipendenti dello Stato e dipendenti degli enti locali, dove la Corte in sostanza dice che vi sono talmente tante differenze tra queste due legislazioni per cui non si pone il confronto rispetto ad un principio costituzionale, non si pone, cioè la valutazione del principio di eguaglianza, la valutazione formale tra due razionalità della legge, non vengono messi in campo gli aspetti sostanziali del principio di eguaglianza, né si fa riferimento ad altri principi costituzionali in tema di diritto del lavoro. In tale schema la verifica delle razionalità assume la forma della indicazione dei limiti formali della discrezionalità del legislatore, ma non quella dell'indicazione positiva relativa alla realizzazione di un diritto. In questa prospettiva non ci si muove nella valutazione della realizzazione sufficiente o insufficiente del diritto, ma ci si limita a considerare se la ratio distinguendi è plausibile o meno, se lo strumento normativo prescelto è congruo rispetto alle finalità della legge, se sussistono i presupposti di fatto, eccetera. In questa prospettiva limitata si inseriscono poi il principio della gradualità, che è la prassi delle pronunce di inammissibilità, tecniche che appaiono spesso nulla più che un espediente per non affrontare determinati problemi. Le pronunce di inammissibilità appaiono cioè non tanto tecniche per la soluzione non traumatica dei problemi, quanto, come è stato notato, indicatori della volontà di negare una risposta ai problemi. Nonostante cioè la convinzione dell'incostituzionalità della norma, la Corte, al di là del monito al legislatore, non interviene per rispetto della discrezionalità legislativa. Come è interpretabile però un tale atteggiamento all'interno di una teoria della Costituzione rispetto ai modelli cui facevo riferimento? Esso a prima vista parrebbe inserirsi in una visione, come dicevo, prevalentemente garantista della Costituzione, dei principi e dei diritti in essa contenuti. La Corte cioè si muoverebbe in una dimensione in cui la Costituzione è vista come rame normum, cioè come cornice, cioè come indicazione dei limiti che la Costituzione fissa per l'attività del legislatore, la cornice entro la quale le diverse maggioranze possono muoversi. I diritti in questa dimensione, più che un'interpretazione, come abbiamo visto, più che un'interpretazione sostanziale e precettiva, divengono i limiti dell'attività del legislatore e non implicano necessariamente una realizzazione da parte di quest'ultimo. La giurisprudenza che abbiamo esaminato, il ruolo prudente e soprattutto una serie di argomentazioni della Corte, dal bilanciamento che assume la forma della graduazione all'affermazione della piena discrezionalità del legislatore e alla delega nei suoi riguardi in materia di attuazione dei diritti sociali, sembra implicare, appunto a partire dalla gradualità e dalla progressiva prevalenza, come è stato notato, di un giudizio costituzionale più concreto, una funzione più giurisdizionale e garantistica del ruolo della Corte. Di converso, il recupero di una funzione di indirizzo, presente anche se probabilmente discutibile in alcune sentenze degli anni 90, pare segnare il recupero della sua funzione politica e di indirizzo in cui l'interpretazione dei diritti della Corte assume una valenza diretta per il legislatore. Se inseriamo queste considerazioni, dicevo, all'interno della dottrina della Costituzione e in particolare della dottrina italiana, e qui utilizzo l'analisi che ha fatto Fioravanti della dottrina italiana, avremo delle risposte diverse e probabilmente più problematiche. L'atteggiamento prudente della Costituzione rispetto della discrezionalità del legislatore nella fase che abbiamo analizzato sembra derivare non solo da un certo strain della Corte e da una concezione di cornice della Costituzione, ma può essere presente anche nell'idea della Costituzione come indirizzo vincolante. Concezione infatti della Costituzione come norma programmatica vincolante e superiore rispetto alla legge, pur individuando due soggetti istituzionali per il coordinamento tra Costituzione e legislazione, la Corte sul piano giuridico e il Parlamento su quello più direttamente politico, attraverso il passaggio decisivo del principio della sovranità popolare e della pluralità democratica, assegna il ruolo diretto di attuazione delle norme programmatiche esplicitamente al soggetto politico, sulla base di un accordo generale sui principi. In questa prospettiva, cioè una Costituzione vincolante come indirizzo, alla Corte, sia perché la Costituzione è intesa come norma rivolta primariamente a un soggetto specifico, in particolare per i diritti sociali, e la concezione di Crisafulli dei diritti sociali come norme a destinatari speciali, e sia in relazione, come è stato segnalato, alla separazione tra giurisdizione costituzionale e ordinaria, in cui la Corte giudica sulla Costituzione ma non ha influenza diretta sulla giurisdizione ordinaria, dicevo, alla Corte è richiesta un'attività di supporto al soggetto politico anche in una visione estensiva del ruolo della giurisprudenza costituzionale. L'alternativa, cioè, tra limite e intervento, tra cornice e indirizzo, va mediata, nella mia prospettiva, dalla considerazione dei soggetti che devono operare per la realizzazione dei principi costituzionali. Questo dato appare evidente se si considerano i presupposti della dottrina italiana della Costituzione e la riflessione e le posizioni in questa direzione di autori quali Mortati e Crisafulli. La realizzazione dei principi costituzionali e l'esigenza del mantenimento della pluralità democratica, il punto di mediazione, cioè tra principi costituzionali e affermazione di una particolare ideologia o della decisione, in questo senso, di una maggioranza variabile, il rispetto cioè del programma costituzionale e la sintesi tra interessi di parte e interesse generale, è all'interno di questa riflessione affidata esplicitamente al ruolo costituzionale del partito politico all'interno del sistema rappresentativo. La dottrina della Costituzione, in particolare la dottrina italiana, come indirizzo e norma vincolante per i soggetti pubblici e privati, implica cioè l'individuazione all'interno del sistema rappresentativo di un soggetto politico, il partito, che assume, come è stato scritto, il ruolo di vero centro motore della attuazione costituzionale, in grado di produrre e mantenere un indirizzo fondamentale e di rappresentare e trascendere gli interessi particolari. La contrapposizione tra un modello neo-organicista ed uno neocontrattualista del rapporto tra Corte e Parlamento, che è stata proposta da Zagrebeschi in un saggio degli anni Ottanta, appare cioè insufficiente. La dottrina della Costituzione, nella mia prospettiva, deve cioè essere considerata alla luce dei presupposti politici e funzionali, nel senso di un'accezione materiale della Costituzione, dei diversi modelli. Ciò appare evidente se si pensa che i valori costituzionali, per così dire, si incardinano nei partiti che, in quanto, secondo la nota espressione di Mortati, parte totale, sono i soggetti della realizzazione di tali principi. Non c'è dubbio che, in questo senso, la realizzazione dei valori costituzionali passa attraverso il ruolo dei partiti politici, che sono i soggetti della loro realizzazione, sulla base del fatto da un lato che sono i titolari del potere costituente e sono poi successivamente i titolari di un potere costituente latente e sono i protagonisti del compromesso tra valori e i principi costituzionali. Esplicito in questa prospettiva Mortati per il quale il soggetto del potere costituente è sì il popolo, ma un popolo, come dice Mortati, capace di dare e di darsi una Costituzione, cioè un soggetto che viene individuato prima dell'organizzazione del CNL e poi del partito, capace di libertà e autodisciplinamento, che possa incorporare in sé i valori costituzionali. È ovvio che a tali soggetti all'interno della superiorità della Costituzione tocca anche la verifica dell'attualità e della validità dei principi. Se qualcosa non funziona dei principi, sono loro i soggetti della creazione di un nuovo compromesso. Qui c'è la Crisafulli sottolineerà questo ruolo del partito politico. La dottrina della Costituzione a questo proposito presuppone in sostanza una sorta di interruttore automatico che passa attraverso gli strumenti della volontà politica, un interruttore che di fronte a principi non attuati o posti in discussione trova nel sistema politico la sede di composizione di un nuovo compromesso. In questa prospettiva, all'interno di un modello che tenta di fondere appunto gli aspetti di indirizzo, gli aspetti garantistici, cioè organicismo e contrattualismo, alla Corte spetta un ruolo di collaborazione e di indicazione di alcuni limiti se il modello funziona, ma non certo quello della realizzazione diretta dei principi. Una Corte, cioè, rispettosa della discrezionalità legislativa è il correlato di una dottrina che in un'ottica per alcuni aspetti ancora statocentrica affida la realizzazione e la concretizzazione dei principi costituzionali a dei soggetti precisi, capaci di essere sia soggetti del pluralismo e contemporaneamente gli interpreti della solidarietà costituzionale. Alla Corte pare spettare, cioè in questa struttura, un compito di mantenimento di questo equilibrio, la funzione di indicare, cioè, gli aspetti non negoziabili dai soggetti politici. In questa dimensione al partito spetta un doppio ruolo, di soggetto di integrazione politica e contemporaneamente di soggetto della costruzione di una continua solidarietà sui principi. Il ruolo del partito è circolare, di rappresentazione in vista della mediazione e di strumento di raggiungimento del compromesso all'interno di valori comuni. Se la ricostruzione che ho sviluppato è nei suoi lineamenti essenziali corretta, ne seguono una serie di implicazioni. La modificazione degli atteggiamenti della Corte, la sua evoluzione verso un atteggiamento più incisivo, sarebbe anche la conseguenza di una serie di mutamenti che hanno reso problematico il progetto costituente e i presupposti della dottrina della Costituzione. Non si tratterebbe perciò di un recupero di questa dottrina, ma al contrario il segno della sua debolezza e crisi. Non si tratta però della debolezza intrinseca al modello e alle ambiguità del progetto costituente, in particolare rispetto, è stato notato ieri, rispetto alla pubblica amministrazione, che sono certo presenti, ma del mutamento della Costituzione materiale, cioè dei presupposti politici del modello. In quale dimensione va inserita questa crisi e quale evoluzione può portare per la Costituzione? Innanzitutto va osservato come lo stesso recupero di una più incisiva funzione di indirizzo della Corte, se il processo si consoliderà, appare essere frutto di questi mutamenti della Costituzione materiale che hanno messo in discussione i fondamenti politici della dottrina costituente, della Costituzione, che era appunto la base del progetto costituente. Dove risiede questo mutamento? La risposta sta ovviamente, tutto il mio discorso, nella crisi di due assunti importanti della dottrina della Costituzione, in due direzioni fondamentali, appunto l'inadeguatezza e la crisi del sistema dei partiti da un lato e il progressivo disaccordo sui principi e le finalità dello Stato che ne consegue dall'altro. Come abbiamo in parte già ricordato, buona parte della costruzione della dottrina italiana della Costituzione Costituzione si regge sul partito quale strumento costituente e di attuazione dei principi costituzionali. Al partito, come ho detto, lo ribadisco molto velocemente, spetta una doppia funzione. Da un lato, essi sono i protagonisti del gioco democratico e della pluralità sociale, destinati per questo a porsi in competizione tra loro. Dall'altro, essi sono forme organizzative che presuppongono il dato dell'unità politica sul piano della concordanza sui valori costituzionali. Come abbiamo sostenuto, la Costituzione come indirizzo si regge su questo aspetto. Senza questa seconda faccia dei partiti non vi è possibilità di realizzazione dei valori costituzionali. Ribadisco ancora una volta che, a mio avviso, e come ha sostenuto Fioravanti, la dottrina italiana della Costituzione sul partito politico compie l'investimento pratico e teorico più significativo, cercando appunto di rinnovare gli approcci del diritto pubblico rispetto al rapporto Stato-società. È facile a questo punto osservare come il sistema dei partiti si sia rivelato inadatto a sostenere il doppio ruolo a lui assegnato dalla dottrina della Costituzione. Tale sistema è divenuto infatti per un verso troppo dipendente dalla dinamica degli interessi, spesso una semplice dimensione di questi, e quindi incapace di realizzare la Costituzione nel suo lato prescrittivo, dall'altro verso troppo poco distante dagli apparati pubblici, spesso una vera e propria istituzione di governo e quindi nemmeno più espressione sul piano associativo dei bisogni e delle differenze della società. Il sistema dei partiti si è cioè rivelato inadeguato sia ad essere parte parziale che parte totale, ad essere cioè il soggetto della realizzazione del progetto costituzionale e della costruzione di uno Stato democratico e sociale. Questo dato si è poi tradotto, a mio avviso, anche nella crisi diretta di una serie di principi e di valori della Costituzione da realizzare. Mi avvio rapidamente alle conclusioni accennando ad una serie di interrogativi che si pongono sulla base di questa ricostruzione. In primo luogo, il ruolo più deciso e politico della Corte non appare solo riducibile all'alternanza tra fasi ordinarie e straordinarie della sua attività. Queste fasi, relative alla difesa e all'affermazione dei diritti, sono state poste in relazione nella letteratura, e da Enzo Kelly in particolare, soprattutto con la funzionalità del sistema politico. Secondo questa ricostruzione, l'accentuazione degli aspetti politici o di quelli più giurisdizionali, anche in relazione alla formulazione delle sentenze, sarebbe in relazione diretta, come scrive Kelly, con le condizioni di omogeneità, disomogeneità, compattezza, frantumazione, efficienza, paralisi, stabilità, instabilità che caratterizzano il sistema politico. In condizioni, cioè di instabilità, inefficienza, paralisi del sistema politico, la Corte tende a diventare sede di mediazione dei grandi interessi che non trovano sbocco nel sistema politico e ad accentuare i suoi aspetti di indirizzo, mentre in condizioni opposte tenderebbe ad accentuare gli aspetti giurisdizionali. È però dubbio, e questo primo interrogativo, che questa ambiguità e flessibile capacità di adattamento alla giurisdizione costituzionale possa funzionare adeguatamente in presenza della crisi dei presupposti materiali della Costituzione ed in particolare di fronte a un profondo disaccordo sui principi. Questo interrogativo ha una duplice valenza. In primo luogo, in caso di conflitto tra Corte e legislatore, se cioè di fronte ai diritti sociali la Corte e il legislatore volessero realizzare due modelli di Stato differenti, quale dei due soggetti sarebbe in grado di imporre il proprio? Il problema, cioè, è quello da un lato più tecnico, più giuridico, del seguito della decisione della Corte da parte del legislatore e dall'altro quello più diretto dei principi costituzionali e del modello di Stato che si vuole realizzare. Se cioè la Corte nel campo dei diritti sociali, come è stato notato, tende a porsi come difensore dello Stato sociale e di una politica estensiva dei diritti, di fronte a maggioranze politiche che nella realtà contingente appaiono ridurre lo stato sociale ad una variabile delle logiche di mercato, a che livello si troverà un nuovo compromesso sui principi? In secondo luogo, e quale questione a questa direttamente collegata, quali saranno i possibili soggetti di un nuovo compromesso? La crisi della Costituzione materiale e soprattutto la crisi dei soggetti politici, dell'attuazione costituzionale e dell'integrazione sui principi, attraverso quali canali e in riferimento a quale concetto di Costituzione ci si muoverà. Se da un lato le tracce di una nuova società postpartitica, al di là di forme di organizzazione di interessi parziali, ancora non si vedono, resta però aperto, in particolare, il problema del significato normativo della Costituzione e la sua capacità di essere indirizzo politico unitario per lo Stato e la società. Se il mutamento costituzionale ha prodotto, come ho cercato di mostrare, degli spostamenti significativi, anche se spero non definitivi, nei rapporti tra i poteri, esso non ha ancora delineato i segni e la direzione di un nuovo compromesso e soprattutto non ha delineato il ruolo che la Costituzione dovrà avere.